24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 25 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo venerdì 21 febbraio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori, bentrovati e buon fine settimana visto che ci abbiamo alla fine finalmente. 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente, fate sentire la vostra voce. Tra poco parleremo del referendum sul taglio dei parlamentari e anche su questo vogliamo sentire come la pensate, perché qua ci sono due schieramenti, no? C'è chi pensa che effettivamente i parlamentari vadano tagliati, altri che pensano che sia una riduzione appunto della rappresentanza. Bisogna dire, cara Maria, che però in questo momento i riflettori sono ovviamente puntati su Codogno nel Lodigiano, l'avete sentito anche in GR24, c'è un uomo di 38 anni contagiato dal coronavirus, in questo momento è in prognosi riservata. Simone, e molti si chiedono, capiterà anche a me di incontrare qualcuno che è appena tornato dalla Cina e chissà che mi succede. Sarà bene magari anche nelle settimane che verranno, perché magari capiterà ancora che si verifichi qualche caso, mettere un punto fermo sanitario. Probabilmente su tutto questo, certo. Il nostro ministro della salute vorrà tornare anche da noi a 24 Mattino. Sì, no? sicuramente. Punto fermo su questa cosa. Sì, sicuramente. Intanto, per chiudere con la cronaca, sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina, appunto, e ora è ricoverato nell'ospedale di Codogno, nel Lodigiano. Così poco fa all'area che tira, Ad Agorà, ha parlato l'assessore alla sanità Gallera, sentiamo la sua voce, va. Insomma, è chiaro che adesso stiamo investigando per questo, cioè i nostri tecnici stanno facendo i tamponi, questa persona è al sacco e verrà tenuta in isolamento e noi adesso procediamo a tenere in isolamento o a mettere in isolamento, ma l'isolamento adesso si intende anche al proprio domicilio con una serie di precauzioni, cioè avere una stanza, un bagno singolo quando si esce dalla stanza, mascherina e guanti e nulla di più, per tutte le persone che in qualche modo sono entrate in contatto con lui. Stiamo condividendo tutto sia con il responsabile nazionale della protezione civile Borrelli, con il ministro Speranza, e certo, quindi stiamo approntando tutte le misure necessarie, però a livello molto precauzionale. Ma qualche ascoltatore ci scrive: e l'amico adesso dov'è? È esattamente quello che ci stiamo chiedendo un po' tutti. Lo cercheranno sicuramente. Così sono stati capaci di rintracciare i passeggeri che hanno viaggiato sui treni insieme alla prima coppia cinese che fu ricoverata allo Spallanzani proprio all'inizio della vicenda coronavirus. Sì. E non ci vorrà molto per rintracciare. È vero che l'amico, sui treni, tanto più che lo conosce. È vero che sui treni si fanno le prenotazioni nominative e quindi forse è un filino più facile. Vedremo. Quindi sarà lui, no? E chissà quanta gente ha incontrato sanitarie dove si trova. Quindi e chissà questo quanta... mi pare anche più semplice che rintracciare tutti quelli che avevano viaggiato con i cinesi. Comunque, Simone, per darti un'idea appunto delle priorità, no? Delle cose che il governo si trova ad affrontare in un momento in cui tutti i governi del mondo, ma quelli europei prima di tutto, si trovano ad affrontare la questione coronavirus, sembra un po' surreale, no? Che in Italia ci si metta a discutere il balletto, del futuro, no? Il teatrino, il teatrino, Maria, tutta la parte circense. Ne sentiamo un passaggio di questa parte circense. Sì, Renzi e Conte, va. Noi non abbiamo desiderio di rompere, vogliamo dare una mano per il paese, l'ha detto molto bene Nobili prima, noi siamo accusati di voler bloccare quando stiamo invece cercando, l'avete visto, di sbloccare. Cerchiamo di trovare dei compromessi fin tanto che questo sarà possibile, poi a un certo punto credo che un chiarimento si imporrà. Noi non abbiamo... Il presidente Conte lavora al governo, è passato, ha chiesto la fiducia in Parlamento con un determinato assetto e determinate forze e gruppi, quindi non sarebbe assolutamente improprio che io mi cercassi altre maggioranze. Insomma, no, è un po' il balletto. Renzi che dice: bah, cerchiamo un accordo, anche se forse vorrebbe uscire. Conte che dice: non cerchiamo altre maggioranze, in realtà le sta cercando. Beh, ma il punto è, tutto questo teatrino, la definizione di Renzi dell'altro giorno, è stato innescato da Renzi medesimo. Basterebbe, come dire, disinnescare la cosa e il governo c'ha il coronavirus, l'apertura dei cantieri, la questione autostrade, l'Ilva, le cose di cui abbiamo parlato anche ieri col ministro Patuanelli. Cioè non è che manchi la... come dire, la lista della spesa delle cose da risolvere. E io credo che appunto anche i sondaggi, questi maledetti sondaggi ai quali i politici appendono le loro giornate, ma i sondaggi lo dicono con chiarezza. In questo momento la priorità per gli italiani è che si risolvano le cose. Se le risolve il governo Conte, sì, si perde meno tempo. Questo è un po' dai sondaggi detto si che, vede che insomma è aumentato di un punto Zingaretti, è rimasto più o meno lo stesso, anzi no, è aumentata di un punto Giorgia Meloni, è rimasto sostanzialmente alla pari nella fiducia dei cittadini Conte e niente, tutti gli altri detto rimangono ciò. Rimangono fermi. Detto ciò, cara Maria, insomma, come scrivete, il tema centrale ovviamente è quello che succede al paese, no? Lo scrive bene oggi anche il nostro direttore Fabio Tamburini, che dice: certo, le incognite del virus, del coronavirus e di geopolitica si aggiungono a tutto questo, no? Le tensioni che esplodono in più parti del mondo, siamo, per quanto riguarda l'economia italiana, all'ultimo giro. Tutto questo è vero. È vero dall'altra parte, permettimi di contestare una cosa, che insomma è anche giusto che Italia Viva, se ritiene giusto di fare alcune battaglie, come per esempio quella sulla prescrizione, le faccia, e le faccia e poi però a viso ha aperto, votato, no? Ieri per le intercettazioni, Simone, cioè sì. I parlamentari di Italia Viva hanno votato per le intercettazioni, sì, dico semplicemente, quindi c'è un po' di schizofrenia nell'atteggiamento. Comunque staremo a vedere. Dico semplicemente che se uno ritiene di dover combattere delle battaglie, è anche giusto che le combatta e che lo faccia a viso aperto, se non è d'accordo su determinate cose. No? Ma poi deve essere conseguente e non votare insieme al governo. Cioè, è ovvio che questa è una merdiglia. Puoi votare alcune cose col governo e alcune cose non essere d'accordo, ma ci sta, non è che tutto un mondo compatto. Oggi i quotidiani fanno rilevare un po' l'incongruenza. Comunque è chiaro, qui siamo in una fase di guerriglia politica. In politica non è la prima volta, abbiamo visto, tutti si ricordano il tira e molla di Bertinotti che per mesi tenne sulla graticola il governo Prodi e poi lo fece cadere. Non portò grande fortuna a Bertinotti, ma in ogni caso non portò grande fortuna nemmeno all'Italia, perché dopo quel governo Prodi abbiamo avuto poi tutta una serie di lente, forse ci sarebbero state lo stesso, non si sa, però abbiamo avuto tutta una serie di lento declino. Sì. Tutte le cose che appunto oggi vengono al pettine e che il direttore Tamburini puntualmente elenca. Però chissà poi questo è il sabato di tregua, perché comunque domani ci saranno gli incontri sia qui a Roma, sia del Partito Democratico che di Italia Viva, ci saranno degli eventi di partito. La settimana scorsa c'è stata la manifestazione dei 5 Stelle. Gli unici che per ora sono silenti sono quelli della Lega. E bisognerà capire perché vedremo. Senti, prima di chiudere questa prima parte ti voglio portare invece su una bella notizia. Iole Santelli, la neo presidente della Regione Calabria, sta componendo la sua giunta, ha convocato e ha accettato l'incarico il capitano ultimo nei giorni scorsi, e già l'abbiamo raccontato. Oggi il giornale a pagina 6 ci racconta che convoca una donna, un'eccellenza italiana che tra l'altro tu conosci bene, si tratta di Sandra Savaglio, che era anche apparsa sulla copertina di Time, e sarà l'assessora regionale calabrese a università, ricerca scientifica e istruzione. Insomma, guarda, niente male. È una bella notizia per due ragioni. La prima è perché Iole Santelli, la prima donna alla presidenza della regione Calabria, sta un po' sorprendendo, sta facendo delle mosse che forse non si attendevano da lei, sta lanciando dei segnali di movimento, di cambiamento di clima in una regione che è stata per ora, diciamo, molto conservatrice anche nella scelta del suo personale politico, sempre i boss, sempre quelli che comunque governavano da tempo nei partiti. Sandra Savaglio, sì, hai ragione, la conosco, è stata una delle prime interlocutrici che ho intervistato per il libro che scrissi qualche anno fa, Il potere delle donne, e lei mi raccontò una storia fenomenale. Madre veneta, padre calabrese, il padre avrebbe voluto studiare le facoltà scientifiche, andare all'università, ma non aveva i soldi di famiglia per farlo. L'ha fatto sua figlia con una straordinaria qualità, ha lavorato all'istituto, al prestigioso istituto Max Planck in Germania, ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, sempre in prestigiose università. Una cosa che mi diceva Simone è che quando da ricercatrice giovane, ma comunque già con una sua robusta preparazione, prendeva la parola negli incontri scientifici e suggeriva delle strade, non se la filava nessuno. Nel giro di mezz'ora o magari di una settimana, quella sua stessa proposta veniva avanzata da un collega maschio, sì, e allora veniva presa in considerazione. Bene, adesso si sta prendendo una bella rivincita. Una bella rivincita. Complimenti a Sandra Savaglio. Niente male, niente male. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Mattino. Manca poco, manca relativamente poco. È il 29 marzo, andremo a votare dalle 7 alle 23 per il referendum costituzionale. È un referendum confermativo, a differenza dei referendum ai quali siamo abituati normalmente. Ossia, si voterà per approvare la legge che prevede, la legge costituzionale, che prevede il taglio dei parlamentari, che porterà a 400 il numero dei deputati e a 200 il numero dei senatori, con un massimo di 5 senatori a vita. E che dovrebbe anche ridurre i costi della politica, e qui ci sono opinioni differenti, perché secondo i calcoli del Movimento 5 Stelle il risparmio atteso è di 100 milioni di euro l'anno, e quindi 500 addirittura milioni di euro a legislatura, sì. Però invece Cottarelli, che è il presidente dell'Osservatorio dei Conti Pubblici, è già stato mani di forbice al Ministero dell'Economia ai tempi di Piercarlo Padoan, dice che invece il risparmio netto sarà inferiore, sarebbe pari a 57 milioni l'anno, 285 milioni a legislatura, che sempre qualcosa sono comunque, quindi comunque un po' di soldi si risparmiano. Ci si divide. Vedremo anche chi ha ragione. Sì, ci si divide anche su un altro fronte, quelli che dicono così si riduce la rappresentanza dei cittadini italiani, e gli altri che dicono invece no, ci serve un maggiore snellimento, ci serve uno snellimento del Parlamento. Abbiamo i rappresentanti di, per così dire, entrambi gli schieramenti. Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, che ha promosso, tra i firmatari, anzi forse tra a capo, no, di coloro che sono andati là a firmare per avere questo referendum. Cangini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, eccoci. E Gianluca, buongiorno. Perilli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, che è quello che ha sostenuto più energicamente appunto il taglio dei parlamentari. Perilli, buongiorno, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Maria, prego. Allora, la prima domanda è per Cangini, che è contrario alla riduzione del numero dei parlamentari e ha, appunto, come dicevi tu, Simone, promosso con gli altri il referendum. Allora le chiedo, ma perché l'Italia dovrebbe continuare ad avere un numero di parlamentari maggiori di quanto ci sia in Francia? In Francia per ogni 100.000 abitanti ci sono 1,4 parlamentari, in Germania addirittura 0,9, in Spagna 1,3 parlamentari, in Polonia 1,4. Perché noi dovremmo avere 1,6 membri del Parlamento per ogni 100.000 abitanti? La domanda è perché dovremmo avere il Parlamento meno rappresentativo di tutta Europa, perché questo sarebbe se la riforma entrasse in vigore, avremmo rispetto alla popolazione meno parlamentari di tutti gli altri. Questa è la raccolta di firme e il fronte del no, è stata promossa dalla Fondazione Einaudi, non dalla casta, a firmare è stato Carlo Rubbia, premio Nobel, il senatore a vita che certo non ha problemi di rielezione, i principali, per non dire quasi tutti, i costituzionalisti italiani auditi in Commissione Affari Costituzionali sono contrari a questo taglio perché questo taglio non ha alcuna attinenza con la funzionalità delle istituzioni, danneggia la funzionalità del Parlamento, riduce enormemente la rappresentatività del Parlamento lasciando intere regioni senza per esempio la possibilità di esprimere un solo senatore delle opposizioni e si giustifica unicamente con gli interessi politici di chi l'ha promosso, cioè l'anticasta, no? Le poltrone, tagliamo le poltrone, in realtà si taglia la democrazia, si taglia la qualità della democrazia e la democrazia per me non si taglia, quando dicevi dei costi, sinceramente, insomma, vista l'evidente inaffidabilità tecnica, diciamo, del Movimento 5 Stelle, mi fido di più delle stime di Carlo Cottarelli. Il risparmio è lo 0,007% della spesa pubblica, equivale a un caffè all'anno per ciascun italiano. Parlare di risparmi è ridicolo, oltre che un po' offensivo. Si delegittima il Parlamento, si realizza il piano di Casaleggio, che è quello di superare il Parlamento e trasferire la potestà legislativa dal Parlamento alle piattaforme web, immagino quelle gestite dal medesimo Casaleggio. Insomma, non c'è alcun vantaggio per i cittadini, ci stanno molti svantaggi ed è una questione retorica che viene dopo 30 anni di spirito anticasta, che indebolisce la politica, fiacca lo Stato, rende impotente la politica, oltre che umiliare fa politica e scoraggiare le persone di valore dall'avvicinarsi alla politica, perché se la politica... Ma mi pare che le persone siano scoraggiate, le persone di valore siano scoraggiate a candidarsi in politica perché sono i partiti che non le vogliono molto spesso, no, guarda, nel senso che non fa comodo avere delle persone che la pensano spesso con la loro testa, fa comodo avere degli yes men che spingono questo un bottone, è vero, questo è quanto cose, spesso molti parlamentari denunciano e lamentano. È vero, ma io dirigevo giornali fino a 2 anni fa, quindi avevo un mestiere, lo facevo anche con una certa soddisfazione e un qualche successo. Quando mi è stata offerta la candidatura, mi sono consultato in giro, non ho trovato una sola persona disposta a dirmi vai, è un onore, è una cosa meravigliosa, cosa che io pensavo e penso, tant'è che alla fine l'ho accettata la candidatura. Tutti mi hanno detto ma che sei matto, è più quello che perdi di quello che ci puoi guadagnare, verrai considerato una persona sporca esclusivamente per il fatto di fare politica. Non è così negli altri paesi. Sono stato l'altra sera a cena con un importante francese, quando gli ho raccontato quello che ho appena detto era sconcertato, da noi è un onore fare politica e assumere la funzione parlamentare, e in Francia ci sono importanti forze antisistema, la Le Pen, ci sono gilet gialli in piazza, ma il Parlamento e la funzione politica sono rispettati, questo referendum serve a ridare l'onore alla politica, è un referendum tra demagogia e politica, mettiamola così. Gianluca Perilli, dunque, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che cosa replica a Cangini? Perché si dovrebbe, secondo lei, votare sì al referendum per confermare il taglio dei parlamentari? Ovviamente non sono per niente d'accordo, quindi questa è la prima risposta. Non è che l'abbiamo chiamata a caso, mica vogliamo fare la messa cantata qua, prego. Vi spiegherò anche perché. Tra l'altro vi faccio una considerazione anche di carattere costituzionale. Il numero attuale dei parlamentari non era contenuto nella carta costituzionale così come era pensata, perché lì veniva espresso un rapporto tra popolazione, tra il numero delle popolazioni che c'era e il numero di rappresentanti, quindi c'era questa proporzione, questo rapporto. Successivamente nel 63 mi sembra, con legge costituzionale si fissò l'attuale numero. Naturalmente questo numero poi è stato anche, ci sono state tante proposte di rivederlo successive, questo non viene mai detto, ci sono state anche tentativi quasi riusciti alla fine, perché sono state fatte delle istruttorie che hanno in qualche modo esaminato tutte quante le condizioni per poter avere la rappresentatività, la rappresentanza. E io dico, perché dico questo? Perché le condizioni del 1963 e soprattutto della possibilità, della capacità di rappresentare la voce dei territori che avevano i rappresentanti di allora, è molto cambiata. Adesso ci sono tanti strumenti, ricordo ovviamente non solo le questioni che noi conosciamo dei social o della comunicazione televisiva e quant'altro, che aumentano, diciamo, esponenzialmente quelle che originariamente erano le capacità anche di un singolo parlamentare di essere sul territorio. E quindi diciamo che questo problema della rappresentatività, secondo noi, è un falso problema che viene utilizzato in maniera strumentale, come anche quella Mi scusi Perilli, lei quindi ci sta dicendo che da decenni si parla della riduzione del numero dei parlamentari e che voi, insistendo nel taglio dei parlamentari, siete riusciti a farla diventare legge? Per la prima volta, guardi, io ho studiato, io sono in affari costituzionali, sono un avvocato, mi occupo soprattutto di diritto costituzionale e quant'altro, e io mi sono andato a esaminare anche i dibattiti, i discorsi che ci sono stati nella commissione, anche gli esperti costituzionalisti, è un dibattito di anni e anni e anni, quindi cadono tre grosse critiche: l'irresponsabilità, come posso dire, la superficialità o quant'altro nell'operare questa riforma che, come detto, viene da lontano ed è stata anche ponderata. La questione dello scarso risparmio. Il risparmio va ovviamente proporzionato non solo alla questione dei risparmi diretti, delle indennità che devono essere corrisposte, diciamo gli stipendi e quant'altro che non sono pochi, ma dell'indotto, chiamiamolo così, che gira intorno a un parlamentare a livello di supporto, quindi con collaboratori, tra l'altro anche con uffici. Qui sono interi palazzi che hanno, come dire, gli alloggi dei senatori, ci sono una serie di servizi che ci sono, insomma, quindi si arriva a generare un grandissimo risparmio. Adesso non mi sembra neanche, come dire, utile in questo momento mettersi su delle cifre, cottarelli ne da una, noi ne diamo altre, però rispetto a questo c'è comunque una base comune importante. E la terza è un Parlamento sicuramente più snello, più efficace, perché si metterà a mano anche ai regolamenti, le commissioni tra l'altro avranno un'operatività maggiore e ci sarà un allineamento, come è stato ricordato all'inizio, con gli altri paesi europei che certo non soffrono deficit di rappresentatività o di rappresentanza. Il rischio, Perilli, la butto là, anche sulla base della domanda che faceva prima Maria Latella Cangini, è questo: che con un numero ridotto di parlamentari il tema del leader che, per così dire, tiene al guinzaglio i suoi parlamentari, perché è lui che di fatto decide chi entra in lista, insomma, si fa un po' più stretto questo guinzaglio. Ma guardi, questo io mi permetto di dire che è una questione che riguarda non il numero dei parlamentari, ma le leggi appunto elettorali, riguarda la democrazia interna ai partiti, riguarda tanti aspetti. Io vedo che, guardi, vado proprio al nocciolo: noi abbiamo avuto il coraggio come forza politica, quindi come quelle persone parlamentari che occupano quelle poltrone, di riflettere e in piena autonomia, quindi come esercizio di massima libertà e autonomia, abbiamo deciso di tagliarci, diciamo, la poltrona dalla quale dove siamo seduti. Questo dimostrazione che non facciamo e non perseguiamo nessun interesse di parte, ma facciamo un ragionamento, come dicevo, che viene da lontano, ma che noi abbiamo attuato per la prima volta su noi stessi. È un grande esercizio di libertà, perché il sospetto che si vogliono mantenere i propri privilegi, i propri stipendi, il proprio numero, con, come dicevo, costi importanti, è alto. E quindi noi, come dire, abbiamo per la prima volta dimostrato nei fatti che siamo capaci di tutelare gli interessi collettivi. Poi vi dicevo, adesso mi sembra che ci sia una grande comunicazione, un grande collegamento tra i rappresentanti e i territori e i loro elettori, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, sulle televisioni, e sono cresciuti esponenzialmente tantissimi strumenti che prima non c'erano e che rendevano, come dire, anche un po' difficile portare la voce di territori particolarmente nel Parlamento. Ecco, questo dico. Faccio una domanda maliziosa, poi vediamo chi di voi vuole rispondere. C'è chi dice che le lobby ce ne sono tante, alcune agiscono assolutamente in modo trasparente e fanno il loro lavoro, però c'è chi dice che le lobby, con il taglio dei parlamentari, avranno gioco più facile. Perché? Perché i senatori e i deputati saranno di meno e, diciamo con un eufemismo, sarà più facile raggiungerli proprio perché sono di meno. Allora significa che finora ne raggiungevano in maniera ridotta perché erano troppi? Chi mi risponde? No, non è così, se posso. Ci saranno collegi elettorali sempre più grandi, Quindi inevitabilmente i candidati saranno costretti a spendere di più per le campagne elettorali e di fatto saranno più condizionabili, poi ognuno ha la propria struttura etica e morale, ma tecnicamente saranno senz'altro più condizionabili dai loro finanziatori. Il progetto che, a cui alludevo io nella risposta iniziale, il disegno di Casaleggio, confermato dalle parole di Perilli, è una manna per le lobby, cioè più si sposta la funzione legislativa dal Parlamento, dalle persone in carne ed ossa con un volto che sono responsabili di quello che fanno, a una piattaforma digitale, più il potere delle lobby cresce inevitabilmente. Il Movimento 5 Stelle aveva abbinato questa riforma, il taglio della rappresentanza parlamentare che nessuno nella storia repubblicana aveva mai ipotizzato a sé stante, se ne è parlato in ragione di, era un aspetto complementare a una riforma delle istituzioni per tutte le altre forze politiche nella storia repubblicana, l'avevano associata al referendum propositivo, cioè spostare la funzione legislativa alle piattaforme lobby, con dei click si decidono le leggi. Per una grossa azienda che volesse per esempio introdurre la liberalizzazione della vendita delle armi, sarebbe una manna, aspetti un fatto di cronaca efferata, parti con una campagna su Facebook a bassissimo costo, rivendicando il diritto del cittadino di difendersi, quella norma diventa legge sicuramente. Perilli, io non riesco non a capire. Solo per dire che ogni volta che si affronta un argomento che riguarda appunto come questo in maniera molto concreta il numero di riduzione parlamentare, con quello che abbiamo detto si tira in ballo le tesi di Casaleggio, i progetti, quelli che ci stanno ma lo trovo assolutamente, diciamo così, non solo non c'entra nulla, ma è un modo secondo me anche per deviare il discorso su un tema che ho ricordato, cioè il coraggio, l'autonomia, la libertà di tagliarsi la poltrona, che vedo che invece storicamente trova resistenza. Scusa, posso fare una domanda? Posso? Mi sente? Prego, prego. Cioè, tu hai qualche dubbio? No, fate tra voi, fate tra voi, nessun problema, tranquilli, tutto a posto. Ma ce ne siamo dette anche in assemblea. E continueremo a dirci naturalmente. Credo sia incontestabile che, essendo pochi parlamentari, i capi partito faranno rientrare esclusivamente le persone di massima fiducia, che non sempre sono i migliori, sono quelli che hanno ragione tendenzialmente. Scusi Cangini, ma perché non era così finora? Cioè, voglio dire, io mi occupo di politica da alcuni decenni. Permettete un leader far entrare un nemico, se non che fosse uno. Zitti tutti, c'è una confusione pazzesca. Zitti tutti. Allora, facciamo rispondere Cangini, posto che Maria, per come la vedo io, con tutte le girate di gabbana che abbiamo visto nell'ultimo periodo, beh, insomma, la massima fedeltà non la vedo. Però Cangini, prego. No, per farsi eleggere sì, però, Simone. Sì, quello sì, figurati. All'inizio lo dici. Fammi parlare, per favore. Un capo bastone, un segretario di partito o uno incaricato dal leader di fare le liste non mette persone che non rispondano o al leader o a se stesso. Questo mi pare, come dire, acclarato negli anni. Poi ciascuno nei partiti ha le sue correnti e impone i suoi uomini. Quello che dico è che all'inizio dicono tutti, all'inizio dicono tutti son fedele, poi vediamo quello che succede. un attimo Cangini, sentiamo anche qualche ascoltatore, va, qualche messaggio WhatsApp, via. Facciamoli restare tutti e mille e dimezziamo lo stipendio, così i risparmi sono sicuri al 100%. A me personalmente, pur essendo ingegnere informatico, essendo avvezzo ai social, essendo all'interno di un mondo digitale in costante crescita e di cui faccio parte in pieno, anzi al 120%, non frega nulla di essere rappresentato politicamente all'interno dei social. Io voglio gente vera che venga sui territori e che parli. Questo signore parla di rappresentatività dei territori, ma fa da ridere. Ma chi li vede i rappresentanti? Ma se li scelgono i partiti? Ma se mettono gente che non è neanche originaria dei territori? Ma di cosa stiamo parlando? E queste sono anche le vostre opinioni. Perilli, c'è una cosa che io non ho capito. Come si snellisce effettivamente il lavoro del Parlamento? Cioè, non è che meno gente necessariamente vuol dire che il lavoro del Parlamento si snellisce. Mi viene da dire, questo punto era meglio dare il via libera allo svuotamento dei poteri del Senato e lasciare una sola Camera. No, i poteri rimangono intatti e sono esercitati in maniera più efficace. Le dico subito, nelle commissioni, ovviamente adesso c'è stata anche una modifica del regolamento, è possibile procedere in sede deliberante, quindi sostanzialmente la commissione esclude il lavoro d'aula e può essere spesso, deve avere l'unanimità, c'è un ragionamento che spesso è difficile con numeri maggiori poter trovare una via più rapida, ci sono all'interno delle procedure le situazioni che prevedono dei quorum molto più complicati, insomma è anche un fatto procedurale che andrà ovviamente ed è molto semplice, adeguato al nuovo Parlamento che renderà molto più agile anche il lavoro parlamentare. È una questione anche, io contrasto due ragionamenti, tante persone vuol dire molta rappresentatività, non dipende da quello, e il discorso che appunto è stato fatto prima delle influenze che si sa o del contornarsi di persone strettamente cosiddetti yes men, perché questi, come ha ricordato prima la Tella, sono assolutamente prerogativa di questi ultimi anni anche a Parlamento pieno attuale, quindi insomma sostanzialmente cadono due grandi obiezioni, ecco. Volevo dire una cosa all'ascoltatore di prima che si lamenta di non vedere i politici sul territorio. Beh, è polemica proprio di queste ore. Tommaso Cerno, giornalista eletto con i voti del Partito Democratico a Milano, è passato a Italia Viva e ora dal Partito Democratico di Milano protestano, dicono ci ha usato come un taxi, non ci restituisce i soldi e non l'abbiamo proprio visto. A proposito di presenze sul territorio di Cangini, presenze sociali. Cangini, terribili questi giornalisti in politica, è proprio una cosa. Di solito non lasciano tracce indelebili. Beh, uno è diventato presidente del Parlamento europeo, Sassoli. Per la verità. va bene, andiamo a chiudere. Grazie Andrea Cangini, senatore di Forza Italia, Gianluca Perilli, capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, per questo dibattito dedicato al referendum che si svolgerà il 29 di marzo dalle 7 alle 23, un referendum confermativo. Maria, qualcosa da dire in chiusura? Vorrei salutare Cangini e Perilli e chiedere quante persone conoscono che vanno a votare. Però sono già andati purtroppo, cara Maria. Vabbè, pazienza. Vediamo quanto sarà l'afflusso. Vedremo. Comunque non c'è il quorum, ricordiamocelo che non c'è il quorum. Sì, qualunque sia l'afflusso alle urne, non c'è il quorum. Grazie Maria, ci sentiamo lunedì. Buona domenica, buon weekend, ciao a tutti. Lunedì alle 8:20, grazie Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Aina e Francesco Ciaraffo i nostri autori. Noi ci risentiamo lunedì alle 6:30. Ciao.